Ben ritrovati a tutti da Mirko Cavallin. Continua la proposta di Blu Radio Veneto di contenuti, convegni, incontri, eventi che si sono svolti nell'ultimo periodo nel nostro territorio diocesano. Vi portiamo oggi in Fondazione Lanza, lo scorso 14 di febbraio, la presentazione del libro Dove va la morale, Papa Francesco e il rinnovamento dell'etica. L'iniziativa della Fondazione Lanza, Centro Studi in Etica, che ha interpellato alcuni teologi e pensatori per riflettere meglio sulle coordinate lungo le quali si orienta la riflessione di Papa Francesco e cogliere quali siano gli stimoli che essa lancia sul piano morale. Il risultato della ricerca e del confronto successivamente è diventato appunto questo volume. Dove va la morale? Papa Francesco, il rinnovamento dell'etica, edito da Project Edizioni, che intende aiutare a cogliere il rinnovato paradigma che sta emergendo e sta forgiando una varietà di vari ambiti della Chiesa. Gli ospiti di questa sera sono alcuni degli estensori di questi testi: Don Giampaolo Dianin, Don Giuseppe Quaranta, Simone Morandini, Lorenzo Biagi, con la presenza del presidente della Fondazione Lanza Lorenzo Celi, del vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, il coordinamento di Germano Bertin, caporedattore della rivista Etica per le Professioni. Buon ascolto. Bene, buonasera e benvenuti a tutti voi. Ho cercato di salutare anche personalmente, dopo l'ultimo sono arrivate anche persone che non conosco e che non ho potuto salutare, però il benvenuto e il grazie che siete qui questa sera. Questa sera è un momento, come dire, di condivisione, di ascolto di alcune parole che sono state scritte, ma che sono state prima pensate, sono state condivise, confrontate. Sono qui con noi, avete visto, anche persone che sostengono questa realtà che è la Fondazione Lanza, che da anni si occupa di fare studi e ricerca sui temi dell'etica applicata. Darei subito la parola al presidente della Fondazione Lanza per introdurci in questo percorso, prima di riprendere la parola, poi per presentare anche i singoli relatori, dando comunque il benvenuto anche al vescovo Don Claudio, che è qui con noi e che ha voluto e preferito stare dalla parte di chi ascolta, per poi è purtroppo in prima fila perché le ultime erano già occupate. Ecco, allora grazie e buon ascolto. Mi unisco anch'io al saluto che Germano Bertin, a nome della Fondazione Lanza, rivolto a tutti voi che avete accolto questo invito e naturalmente anche da parte mia il primo saluto va a Don Claudio che ha accolto l'invito ad essere qui con noi questa sera nonostante una giornata molto impegnativa come tutte quelle di un vescovo e che ama la sua diocesi e la sua gente. Saluto anche il nostro vicario generale, Don Giuliano Zatti, Padre Svanera, che ci onora della sua presenza, e anche il presidente della Fondazione Bortignon, che è qui con noi. Quando nel 1987 il vescovo Filippo volle dar vita alla Fondazione Lanza, egli intese realizzare quanto il Concilio, nella Gaudium et Spes, aveva chiesto alla Chiesa tutta del XX secolo: essere Chiesa nel mondo contemporaneo, capace di farsi carico delle sofferenze dell'umanità, ma anche di condividerne le gioie più profonde. La fondazione rientrava tra quelle che il vescovo di allora chiamava le proposte di fede e di cultura, che la comunità cristiana doveva avere il coraggio di avanzare ad una società verso la quale invitava a sentirsi diversi ma non alternativi, riscoprendone la cultura al servizio dell'umano uno strumento di evangelizzazione potente. Ho riletto in questo mio primo anno di presidenza della Fondazione le suggestioni appena menzionate alla luce dell'esortazione apostolica post-sinodale Evangelii Gaudium in particolare di quei 4 punti contenuti nel capitolo 4, che sono diventati quasi degli slogan nel lessico ecclesiale, specialmente dopo la loro ripresa nel discorso pronunciato da Papa Francesco a Firenze al termine del convegno della Chiesa italiana. Per fuggire al rischio di banalizzare quei 4 punti che ora richiamerò, ogni componente ecclesiale deve leggere in essi un'autentica regola di vita e di azione. Il tempo superiore allo spazio, l'unità prevalente sul conflitto, la realtà più importante dell'idea, il tutto superiore alla parte. È proprio a questa logica che oserei definire processuale che si ispirano i vari percorsi che in questi anni hanno visto la stretta collaborazione fra questa istituzione, la Fondazione Lanza e i suoi ricercatori e la Facoltà Teologica del Triveneto. La domanda «dove va la morale? Dove va l'umano?» sta ad indicare il desiderio di mettersi in ricerca con tutti coloro che amano l'uomo e che amano anche questo nostro tempo, riconoscendo che è il tempo che ci viene dato e che noi dobbiamo interpretare attraverso il Vangelo che ci è stato consegnato. Una lettura profondamente laica della realtà, ma al medesimo tempo ispirata al Vangelo, che ci invita appunto a prenderci a cuore l'umano in tutte le sue componenti. E a me pare che nel momento in cui è stata scelta questa dicitura etica, morale, si intendeva proprio dire questo: l'uomo in tutte le sue componenti. Mi sono domandato, pensando a questo momento, senza voler rubare la scena a chi molto in modo molto più competente di me potrà poi presentare il volume che è l'occasione per ritrovarci insieme questa sera, aprendo quasi in modo ideale, potremmo dire, il trentennale della Fondazione 1987-2017. Mi sono domandato, cosa è chiamata ad essere la Fondazione Lanza all'interno del contesto ecclesiale e del contesto socioculturale così ricco del nostro territorio e del nostro tempo? E ho provato a darmi queste 4 risposte, proprio rifacendomi ai 4 punti ripresi dalla Evangelii Gaudium. Uno spazio di incontro e di confronto fra chi nel tempo desidera cercare. Una realtà nella quale si serve l'unità della persona contro la logica della frammentazione conflittuale. La testimonianza di una ricerca concreta che intercetta la vita, la realtà appunto, e non costruisce grandi strutture ideali al servizio di pochi. Ecco perché ci piace la dicitura etica applicata. Etica applicata ai diversi saperi, etica applicata alle diverse professioni, nella logica del servizio. Infine, l'impegno a testimoniare una visione globale dell'umano, vero fine della cultura, che attingendo proprio dalla gioia del Vangelo possa contribuire ad illuminare la realtà e accompagni chi desidera mettersi in cammino con competenza e simpatia, nel rispetto delle diverse posizioni. Penso alla Fondazione come strumento della diocesi, al servizio di tutti, al fianco delle altre realtà culturali e in stretta collaborazione con loro. Sento che la Fondazione è chiamata a costruire una sinergia autentica con le altre realtà diocesane che cercano di approfondire i vari ambiti del sapere umano e della vita dell'uomo e delle altre realtà culturali e di ricerca e di formazione che vivono sul nostro territorio, in un confronto franco, vero, autentico. Credo che anche la serata di questa sera e soprattutto quanto al termine di questa presentazione ci consegnerà il nostro Vescovo possa diventare la via che dobbiamo seguire in questo nostro impegno. Un impegno umile che a volte lavora, agisce dietro le quinte attraverso la ricerca dei ricercatori della Fondazione sotto la direzione e la regia del segretario generale, con il contributo di tante persone che mettono a disposizione ogni giorno la loro professionalità e il loro impegno perché credono nella missione che è affidata a questa realtà. Io vi ringrazio di essere qui, perché la vostra presenza, così numerosa e così qualificata, sta a dimostrare che l'impegno di tutte queste persone ha un senso. Non è soltanto la velleità di qualcuno che si rinchiude dentro ad una meravigliosa sede, che potrà anche cambiare nel tempo, ma diventa un vero desiderio di collaborazione e di cammino insieme. Buona serata e buon ascolto. Grazie Don Lorenzo. Ci hai messo nel clima, direi giusto, dell'ascolto. Un libro che comincia con una domanda, direi che è un libro che parte con il passo giusto. Perché un libro, credo, deve essere scritto non tanto per dare risposte, ma per sollecitare domande. E quindi stasera direi che partiamo col piede giusto, non solo e poi le parole che Don Lorenzo ci ha consegnato per far capire qual è l'ambiente all'interno del quale è maturato proprio questo libro, ma anche perché dietro a questa domanda probabilmente ci sono tutte quelle che ciascuno di noi si porta dentro. Quelle che vi hanno motivato ad uscire stasera e venire qui ad ascoltare, a cercare, a domandare a vostra volta qualcosa. D'altra parte, il titolo del libro contiene parole ancora importanti. Il sottotitolo dice Papa Francesco e il rinnovamento dell'etica. Allora, se la parola etica può incutere qualche timore perché è sempre qualcosa di difficile da spiegare, da condividere, soprattutto perché obbliga probabilmente a porci delle domande che non si accontentano di dire in che cosa credi, ma ti chiedono di dimostrare nel silenzio della quotidianità come vivi quei valori ai quali dici di riferirti. Però la parola e il nome Francesco, Papa Francesco, ci fa sentire un po' meno in disagio di fronte a questa parola così importante, etica. Papa Francesco in qualche modo in questi anni ci ha abituati ad entrare con una certa, come dire, immediatezza anche dentro alle cose più complesse. E ha aperto una serie di varchi che questa sera, grazie anche agli interventi degli autori che in qualche modo sono stati coloro che hanno contribuito a realizzare quest'opera, non sono tutti qui, ce ne sono altri che non hanno potuto esserci, però ci fa capire che le cose importanti crescono solo lentamente e crescono solo piano piano dentro e nel silenzio della quotidianità. Andremo ad ascoltare parole che ci fanno capire in quali, anzi forse in tutti quegli ambiti di vita in cui noi abbiamo una domanda da porci. Io inizierei lasciando e passando la parola a Simone Morandini, che è coordinatore del gruppo di ricerca della Fondazione sul tema etica, filosofia e teologia, e che in qualche modo è stato anche il curatore del progetto che ha messo insieme tutto l'itinerario che ha portato anche alla costruzione del libro. Simone è abituato a parlare, come dire, di cose importanti, E allora a lui faccio subito una domanda un po' impegnativa, ma lui saprà bene accompagnarci a comprendere meglio le cose. Qual è l'intreccio, Simone, che Papa Francesco ha tessuto o sta tessendo tra l'etica ecosociale e quella che viene chiamata l'etica fondamentale? Quali sono poi i riferimenti che tu riconosci e hai riconosciuto come più significativi che lui ha tratto anche da quella che è la consegna che il Concilio Vaticano II ci ha dato a suo tempo? Grazie Germano, ma mi pare che la domanda che ci guida oggi è davvero il titolo del volume, cioè dove va la morale, ed è una questione che al di là delle specifiche declinazioni per noi della Fondazione Lanza è davvero qualificante. In fondo da 30 anni lavoriamo sempre sulla stessa domanda: dove va, dove può andare soprattutto la morale, dove deve andare? Una domanda che è rilevante per un contesto socioculturale, ma anche specificamente, e in questo volume guardiamo in questa direzione, per quello ecclesiale. Il mio progetto, Etica, Filosofia e Teologia, in particolare, è orientato in questo senso. È un libro che nasce da un'ipotesi abbastanza precisa, che siamo di fronte a una situazione di cambiamento, di rinnovamento, che non riguarda solo la morale, in cui Papa Francesco fornisce ispirazione, stimolo. Anche se talvolta c'è chi fatica, ecco, a cogliere la rilevanza e il peso di questa dinamica. Per questo forse serate come queste ci aiutano un pochino a comprendere dinamiche, a individuare coordinate, a capire appunto dove andiamo. Il testo nasce, un minimo di storia, da un ciclo di incontri tenuto presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Tra l'altro proprio da quel ciclo di incontri poi ha tratto origine la collaborazione che anche quest'anno si esprime nel bene e male nell'incontro tra le religioni, che è in corso in questo periodo, anche giovedì prossimo c'è un incontro. Da questo ciclo di piccoli incontri l'idea di raccogliere altri contributi per ricostruire un quadro che ci aiuti a comprendere come Francesco opera per il rinnovamento dell'etica, in quali direzioni ci sta portando. Sottolineo il plurale, direzioni, unitarietà da un lato ma anche variegatezza dall'altro. Ripensando al titolo rinnovamento, sì forse... E forse potremmo usare anche un'altra parola per certi aspetti, molto cara al pontefice attuale, riforma. Mi sono chiesto, ecco, anche leggendo altri testi in questo periodo, che significa reformare? È una parola polivalente. Luciano Manicardi, in un volume delle edizioni Kikaion, sottolinea che vuol dire dare una nuova forma, ma anche ricondurre all'originario. Significa intrecciare il riferimento a una tradizione, la lettura dei segni del tempo presente e l'apertura al futuro. E mi pare che in tutto questo Francesco ci è davvero maestro. C'è davvero una dimensione profondamente tradizionale nel suo rinnovamento, che pure è così carico di prospettiva. Mi ricordo che pochi giorni dopo la sua uscita, così colpito dal primo discorso che ho fatto, dalla prima omelia, così, su suggerimento di un'amica scrissi questo volumetto, Custodire futuro. Ecco, sono ancora convinto che compendi bene quello cui ci chiama Francesco. Pensate per esempio a un testo che a me è particolarmente caro, come la Laudato Si. È un testo che da un lato ha uno sguardo intenso e pregnante sul presente, dall'altro ha un riferimento molto forte alla tradizione biblica, ma anche alla tradizione dei santi, Francesco d'Assisi, da cui non a caso ha preso il nome, e tutto questo è investito per pensare un'etica che sia nuova e contemporaneamente fedele all'Evangelo di Gesù Cristo. Che vuol dire vivere moralmente e sostenibilmente questo tempo difficile che chiamiamo antropocene, stiamo imparando a chiamare antropocene. Riferimento e contemporaneamente anche l'esigenza di forgiare categorie all'altezza di questa sfida. Tutto il lavoro che Francesco fa per offrire questa espressione ecologia integrale mostra che appunto la tradizione ha anche bisogno di una sua rielaborazione in un contesto culturale mutato. O per dirla in un altro linguaggio, nell'etica di Francesco si intreccia il grido della profezia, ma anche il lavoro della sapienza, in un certo senso. Due parole, ecco, vorrei dire, che emergono trasversali rispetto ai diversi saggi e che legano tra loro la dimensione ecosociale con quella più fondamentale e gli altri che poi saranno trattati. Mi pare di poterli individuare da un lato nella misericordia. La misericordia è fondante per Francesco, sia nel senso di grazia di Dio che ci accoglie, ci prende in carico, sia però anche nel senso di forma cui è chiamato l'agire umano, come corrispondenza, seconda dunque, ma non per questo secondaria, all'agire divino. Etica significa come corrispondere nella concretezza della storia di uomini e donne a questa misericordia di Dio. C'è quindi davvero una concentrazione agapica dell'etica di Francesco. Lui stesso lo dice, richiama una bella espressione del Vaticano II, gerarchia delle verità, affermando che essa vale anche per la morale. Non è scontato questo fatto, un linguaggio nuovo per l'etica, e sottolineando come al centro di questa gerarchia non possa che esserci l'immensità della misericordia, dell'amore, della tenerezza che da Dio scende in noi e siamo chiamati a trasfondere nel nostro agire. Prima parola quindi misericordia. Seconda parola, discernimento. Come dire che per comprendere che significhi operare misericordiosamente non basta il sentimento. Il cuore biblico è ben più che sentimento. È un sentimento pensante, quantomeno. E quindi una competenza morale, un'attitudine a ricercare cosa sia buono, accogliere ciò che è giusto in specifiche situazioni e aree concrete, ma anche nel formulare progetti di vita personali. Discernimento, un tema caro alla grande tradizione ignaziana. Se prima abbiamo evocato Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola è chiaramente l'altro riferimento fondamentale. Quindi un'etica come interrogazione, inesausta, come ispirazione. Potremmo dire etica come bussola, non come completa cartografia dell'esistenza. Etica come strumento per esplorare terre incognite, per imparare a viaggiare in un mondo che cambia e che siamo chiamati a incontrare con modalità sempre nuove e diverse. Un'etica che fa questo discernimento in un contesto di dialogo, un'etica capace di parlare e di ascoltare, espressione di una Chiesa che sa dare aiuto ma anche ricevere aiuto dal mondo e dalla storia. Un altro tema di Gaudium et Spes, i numeri da 40 a 44, perché davvero Francesco non cita tanto il Concilio, perché lo respira semplicemente. È come i padri non citavano la Bibbia, perché la Bibbia era il loro tessuto quotidiano. Lo stesso è per Francesco col Concilio. Tutto questo dunque a servizio di una ricerca di giustizia che si declina nello spazio della relazionalità e dell'attenzione all'altro, della cura e del servizio. Un'etica per coltivare esistenze buone, un'etica talvolta anche per ricominciare dopo i fallimenti. Concludo queste poche battute dicendo che abbiamo avuto il piacere, e Giuseppe era con me in quell'occasione, di consegnare il libro nelle mani di Papa Francesco. Lui lo ha preso in mano, gli era stato consegnato nel contesto di un'udienza dell'ATISM, l'Associazione dei Moralisti Italiani, che lui non conosceva evidentemente. Inizialmente era perplesso su chi fossero i latori di questo testo. Quando ha visto il testo e ha scorso l'indice, ha capito che cosa si voleva esprimere, ha capito che cosa questo testo diceva di lui, e ha sorriso evidentemente, e si è messo a conversare. Ecco, noi speriamo di essere stati dei buoni interpreti di questo lavoro che Francesco ci ha portato. Io devo essere grato come curatore a tutti coloro che hanno collaborato al volume, ai tre che sono alla mia destra e alla mia sinistra, cui si aggiungono Giacomo Costa e Pier Davide Guenzi, che più lontani oggi non abbiamo voluto coinvolgere qua, ma tutti hanno portato un contributo fondamentale al testo che oggi mettiamo nelle vostre mani. Grazie. Grazie Simone. Mi pare che ci ha consegnato alcune parole importanti che intanto mettiamo dentro la nostra stanza interiore. Profezia, sapienza, misericordia, discernimento, bussola, etica come bussola, come qualcosa che ti aiuta a camminare ma che ti dà anche una direzione. Passerei ora la parola a Giuseppe Quaranta, docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica del Triveneto, qui a Padova, e farei una riflessione, e chiederei a Giuseppe una riflessione sulla figura dei papi che hanno preceduto anche il magistero di Francesco, per chiedergli poi di aiutarci a capire qual è l'immagine di Chiesa che ne è emersa da loro, qual è l'immagine di Chiesa che Papa Francesco ci offre, e soprattutto anche che ci aiuti a capire qual è l'identità propria di Francesco, che Chiesa vuole questo Papa Francesco. Grazie. Sì, la domanda sembra esorbitante rispetto a quello che posso dire, però in qualche modo ho cercato di descrivere il contributo tenendo presente un po' questo interesse oppure questa curiosità. Penso che, come tutti voi, nel sentire e nel leggere le prime interviste di Papa Francesco dedicate anche al tema morale, ho avuto un senso di sono rimasto spiazzato, molto favorevolmente spiazzato. Mi è sembrato di sentire davvero un vento diverso, e mentre passava il tempo ho cercato anche di capire se al di là, ecco, di queste interviste, genere letterario abbastanza così immediato, si potesse rintracciare anche nei testi una conferma di queste aperture o di queste affermazioni che, ecco, penso soprattutto alla prima intervista rilasciata a Padre Spadaro su Civiltà Cattolica, in modo particolare poi anche altri testi. Per cui, ovviamente, per cercare di capire qual era il terreno sul quale Papa Francesco ci stava portando, ho dovuto chiedermi anche qual era il terreno da cui venivamo con Giovanni Paolo II e con Benedetto XVI, ovviamente tenendo presente l'impossibilità di esaurire una questione così, così grande all'interno di un piccolo contributo. Ho tentato quindi questo confronto, lavorando soprattutto su alcuni testi, ma in modo particolare, più che sui contenuti dei testi, sulle intenzioni programmatiche legate alla pubblicazione dei testi. È un modo per sciogliere un po' anche la complessità e la matassa, ecco, di questi documenti. Ma sono arrivato in breve a questo tipo di lettura, che rischia di essere eccessivamente schematica ed eccessivamente anche riduttiva, però ho corso questo rischio. Direi così: metterei insieme Wojtyla e Ratzinger, perché al di là delle differenze il secondo è stato per molto tempo collaboratore del primo, e quindi hanno condiviso, ecco, un orizzonte anche di pensiero e di strategia, direi, ecclesiale. Allora, Wojtyla e Ratzinger a me è sembrato, leggendo Veritatis Splendor, i discorsi che hanno introdotto l'intenzione di scrivere Veritatis Splendor per i non addetti ai lavori, è l'enciclica del 93, la prima enciclica nella storia della Chiesa ad essere stata dedicata completamente alle questioni di etica fondamentale, cioè quindi ai presupposti fondativi della teologia morale. Quindi un testo evidentemente unico, molto rilevante. Ecco, Wojtyla e Ratzinger li ho immaginati, li ho visti, li ho colti come figli, se volete, preoccupati, forse anche delusi, ecco, di un'Europa che ha preso lentamente, ma in maniera sempre più convinta, le distanze dalle, chiamiamole, radici cristiane, e che in qualche modo, dentro questo contesto, interpretano la missione della Chiesa e il magistero della Chiesa come una sorta di ultimo baluardo morale, ecco, nei confronti di dei morsi, se volete, velenosi, di quella che Giovanni Paolo chiamava la cultura di morte e che Benedetto XVI chiama con il termine della omelia di inizio conclave, dittatura del relativismo. Solo che dentro a questo scenario, cioè di fronte a questa grave, profonda crisi etica dell'Europa, se la Chiesa vuole svolgere la propria missione di baluardo, che aiuti i credenti, ma non solo, ogni uomo, questo almeno è l'intenzione, a recuperare un aggancio tra la libertà e la verità, così viene detto, che cosa serve? In Giovanni Paolo II è chiaro, serve che anche all'interno della Chiesa si ricostruisca una riflessione etica che si è in qualche modo lasciata contaminare dai fermenti relativistici, dai fermenti esterni in qualche modo all'orizzonte ecclesiale. Proprio perché, dice Giovanni Paolo, anche nel pensiero dei teologi della Chiesa Cattolica, di alcuni di essi, si manifesta una specie di sfiducia nei confronti della sapienza di Dio, e quindi c'è un pensiero teologico debole e un pensiero teologico addirittura errato rispetto alle posizioni tradizionali, ecco, della Chiesa. Per cui ricostruire è un edificio etico più solido, e per fare questo, il terzo passaggio, Giovanni Paolo II vede la necessità di intervenire attraverso un atto o vari atti magisteriali. Quindi è il magistero ecclesiastico del Papa, ma insieme a questo il codice di diritto canonico e soprattutto il catechismo della Chiesa Cattolica sono i tre grandi testi sui quali si costruisce in qualche modo questa risposta. E quindi l'intervento diretto del magistero. Il catechismo della Chiesa Cattolica, pensato come sintesi, oltre che della dottrina dogmatica, anche della dottrina morale, e la Veritatis Splendor invece come strumento di discernimento nei confronti delle tendenze, delle linee teologiche che si distanziano, a volte in maniera anche piuttosto pericolosa, da quella che è la tradizione maggioritaria in qualche modo della tradizione morale cattolica. In modo particolare il punto, il centro del discernimento di Veritatis Splendor che attraversa tutti i temi del secondo capitolo, il capitolo più dottrinale, è la questione delle azioni intrinsecamente cattive, quindi di una universalità delle norme morali rispetto alle quali, soprattutto quelle che vietano dei comportamenti, di fronte alle quali non ci potrebbe essere eccezione. Questo quindi è il punto sul quale ruota, ecco, diciamo, il documento. È chiaro che di fronte a questo Papa Francesco, possiamo cogliere, ma Papa Francesco ha manifestato subito la sua diversità, la sua alterità, cioè il fatto che non sia figlio dell'Europa, sia figlio di un altro mondo, di un'altra Chiesa, e in qualche modo, come ha detto, io ho ripreso perché mi sembrava interessante, una espressione di Kurt Appel, un teologo che insegna a Vienna, come se Francesco avesse deciso di interrompere la guerra culturale incominciata e sostenuta da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, prima nei confronti del comunismo e poi nei confronti del cosiddetto relativismo. È chiaro che perché interrompe questa battaglia, questa guerra, tra virgolette, culturale? Perché l'immagine di Chiesa e di missione della Chiesa in Francesco è piuttosto differente, cioè per Francesco la missione della Chiesa, la Chiesa è più simile a un ospedale da campo dopo una battaglia, per cui nell'ospedale da campo bisogna salvare delle vite umane puntando sull'essenziale, perché nell'ospedale da campo anche le risorse sono limitate, scarseggiano. Quindi nell'intervista lo diceva in maniera così diretta, ingenua quasi, non si può misurare, no, il colesterolo di fronte a un ferito che rischia di morire, occorre intervenire sull'essenziale, salvarlo per quanto è essenziale. Il colesterolo ci penseremo in un altro momento. Allora, in qualche modo, Papa Francesco legge così la missione della Chiesa, cioè la capacità di concentrarsi sull'essenziale, cioè, lo dice in diversi testi, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. Fuggendo, sono sempre parole sue, fuggendo dall'ossessione, così diceva nell'intervista a Spadaro, di trasmettere in maniera disarticolata una moltitudine di dottrine da imporre con insistenza, senza tener conto della diversa connessione delle varie dottrine con l'essenziale, con il centro. Allora, in questo senso, ma chiudo, ho dedicato un po' di qualche pagina alla riflessione appunto su quella formula che citava anche Simone Morandini del Vaticano II, cioè del decreto sull'ecumenismo introdotta dieci giorni prima che si chiudesse il concilio, la formula della gerarchia delle verità. Francesco, è vero, interpreta questa formula in un contesto diverso rispetto a quello del concilio, che l'aveva usata per descrivere il lavoro dei teologi che confrontavano le diverse dottrine, dicendo attenzione che non tutte le dottrine hanno la stessa distanza o vicinanza, lo stesso nesso rispetto al cuore dell'Evangelo. Ma quello che fa Francesco è dire, bene, riprendiamo questa formula della gerarchia delle verità, interpretiamola e applichiamola anche nel campo dell'etica, non solo nel campo della dogmatica, nella quale era stata già interpretata. Ed è interessante, io ho scorso almeno una decina di studi teologici, di studi di teologi e anche di manuali di teologia morale, che nessuno aveva avuto fino a Papa Francesco l'ardire di dire chiaramente, esplicitamente, che quella formula si applicava anche al campo dell'etica e non solo al campo della dogmatica. Che cosa significa questo? Significa appunto che la missione la missione evangelica, la missione di annuncio dell'Evangelo, ecco, della Chiesa, nella misura in cui è centrale, anche qui una formula forse banale ma non troppo, cioè si evangelizza con il Vangelo, sembrerebbe l'acqua calda ma forse non lo è, no? Si evangelizza con l'Evangelo, bene, anche la proposta etica deve manifestare chiaramente un nesso e le dottrine, le prospettive che sono più distanti dal nesso essenziale, dal cuore dell'Evangelo, possono avere diversa configurazione proprio in forza di questa gerarchia, ecco, delle verità. In questo senso, allora, concludo dicendo che Papa Francesco dice appunto ciò che non va oscurato mai è il fatto che l'etica, la morale sia risposta al Dio che ci ama, che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da se stessi per cercare il bene di tutti. È la formula sintetica, risposta al Dio che ci ama, ci salva, a prescindere dai nostri meriti, riconoscendolo però negli altri, uscendo da sé per cercare il bene di tutti. Diversamente, diceva Francesco, cito letteralmente, l'edificio morale della Chiesa rischia di diventare un castello di carte o di confondersi con un mero prodotto ideologico, perdendo la freschezza e il profumo del Vangelo, espressione anche questa che più volte ritorna nei testi e nelle interviste di Papa Francesco. Questo in estrema sintesi il tentativo, ecco, che sta dentro le pagine del contributo. Grazie Giuseppe, mi pare che il tuo dire ci abbia fatto capire che la Chiesa è vista da Papa Francesco soprattutto come una Chiesa in uscita, chiamata a portare, come è il titolo del tuo intervento nel libro, più che delle norme, il profumo del Vangelo. Ecco, che il profumo non occorre, come dire, dirlo, si lascia respirare. Ecco, questo forse è una delle nuove intuizioni che anche Papa Francesco sottolinea con particolare intensità. Il tuo intervento ci aiuta adesso a passare e a dare la parola a Giampaolo, a Don Giampaolo Dianin, che è docente di teologia morale e pastorale della famiglia presso la facoltà teologica, nonché rettore del seminario, del nostro seminario maggiore di Padova. Papa Francesco, insomma, prima di tutto si presenta come un pastore, sottolinea e si presenta con questa veste. Riprendiamo il tema del profumo, ecco, citando e ricordando anche una sua espressione simpatica ma efficace, e quindi ci insegna a capire che la teologia morale, più che un castello, più che una serie di norme, è proprio una chiave di lettura che ci chiede di entrare nella vita di tutti i giorni. E allora ci chiediamo cosa vuol dire far calare tutto questo nella nostra vita quotidiana, di gente magari sposata, pensando alla nostra esperienza di famiglia, come noi gestiamo e viviamo e facciamo crescere i nostri figli, come pensiamo, qual è la prospettiva, quali sono le cose nuove, le cose antiche che lui ci consegna rispetto a questi temi. Grazie. Allora, provo proprio a flash a rispondere a questa domanda e un po' a sintetizzare anche alcune cose che troverete poi anche nel testo. Allora, la prima affermazione è certamente quella che adesso è stata detta, cioè Papa Francesco è prima di tutto un pastore, ecco, e ha in mente il gregge che gli è affidato. Da una parte ha davanti la sfida non della nuova evangelizzazione, lui non la chiama così, ma di una evangelizzazione credibile, credibile, autentica evangelizzazione, e dall'altra ha davanti la condizione concreta in cui vivono le persone, che gli sta a cuore prima di tutto. E non ha mancato anche di dare qualche richiamo ai teologi che non hanno questa attenzione prioritaria alle persone e al gregge. Però non è per questo un pastore che sia povero di teologia, anche se qualcuno un po' l'ha voluto notare, magari senza cogliere la sostanza che c'era dietro anche i suoi interventi o le catechesi del mercoledì. Perché chi va in profondità coglie che c'è un pensiero molto preciso, molto puntuale, che ha anche un percorso lungo, ecco, anche se ovviamente va contestualizzato nella sua storia, nella sua formazione, che è quella di un latinoamericano. Fa sorridere chi un po' contesta Papa Francesco o si scandalizza per il suo modo di parlare, per il suo stile evangelico, ecco, fa un po' sorridere che qualcuno critichi il Papa per essere un po' troppo evangelico e magari un po' così oltre le formalità o certe cose, insomma, però può succedere anche questo, ecco. Quindi anzitutto un pastore, credo che tutti gli interventi che lui fa anche sulla morale dobbiamo leggerli tenendo conto di questo, ecco. Sembra un po' di essere tornati agli inizi della Chiesa, quando i primi teologi, i padri della Chiesa, erano soprattutto pastori, e se scrivevano di teologia lo facevano per rispondere ai problemi che emergevano nelle loro comunità, per cui poi quei discorsi vanno sempre anche contestualizzati nel luogo, nel tempo, nella realtà in cui vivevano. La seconda nota è il linguaggio. Ecco, è un linguaggio a cui non eravamo abituati, ecco, dalla così precisione teutonica di Papa Benedetto, no? Trovarsi a questo linguaggio anche molto narrativo, descrittivo, fatto di immagini. Ecco, è un linguaggio che all'inizio un po' scombina, ecco, però è un linguaggio incisivo che riesce a penetrare, e sia nella Evangelii Gaudium come anche in Amoris Laetitia Papa Francesco richiama tutti noi a domandarci, ecco, se il nostro linguaggio sia all'altezza anche di questo nostro tempo. Ecco, cito quello che scrive Theobald, proprio commentando il modo di parlare di Papa Francesco. Dice: è un linguaggio che non si lascia paralizzare dalla complessità del messaggio cristiano, non si lascia scoraggiare da quei giri d'oca che sono i nostri grandi catechismi, nei quali ci si orienta con la stessa difficoltà di uno straniero nella stazione di Parigi. Okay. Quindi è un linguaggio che tenta non di eliminare o negare la complessità, ma di spezzarla, di renderla masticabile per tutti. Un terzo aspetto che emerge nella visione morale di Papa Francesco è la centralità data alla persona e alla coscienza. Leggo queste due parole perché l'una è legata all'altra, anzi l'una chiede necessariamente anche l'altra. La centralità della persona, ecco, c'è per esempio in Amoris Laetitia continuamente questo richiamo alla famiglia così com'è, nella sua concretezza, nella sua realtà. Dice, partiamo dalla realtà così com'è, questa è. No, ecco. Quindi la centralità della persona, della cura della persona. Noi eravamo abituati, soprattutto nella Chiesa italiana, a parlare di valori non negoziabili. Papa Francesco preferisce parlare di atteggiamenti evangelici non negoziabili. E questo è un aspetto importante. Ecco, e tra questi atteggiamenti evangelici non negoziabili c'è appunto la misericordia, c'è la centralità della persona, eccetera, no? C'è il rispetto di ciascuno e così via. E legata alla centralità della persona c'è anche poi il nuovo posto che Papa Francesco dà alla coscienza. Qualcuno rimane un po' scandalizzato di questo. Con Papa Giovanni Paolo II e anche con Papa Benedetto c'era un po' di paura di parlare della coscienza. Nel contesto culturale del soggettivismo c'era il timore che parlare di coscienza volesse dire aprire la strada al soggettivismo. Papa Francesco ci riporta a quell'idea della coscienza che era propria del Vaticano II, che non è solo quel luogo che applica una legge, ma è anche l'autocoscienza della persona, la consapevolezza di se stessa, che ha un ruolo anche, oserei dire, di plasmazione della stessa legge morale, in un rapporto di reciprocità tra legge e persona, tra legge e coscienza. Una terza nota, la chiamo così, è la leggerezza della morale. La vita morale che Papa Francesco ci mette davanti non è una camicia di forza che quasi vuole ingabbiare, costringere. A me viene in mente, qua è vero, non c'è nulla di nuovo, no? Viene in mente la prospettiva di Tommaso d'Aquino. Per San Tommaso la morale era come una lunga strada che aveva come meta la beatitudine, l'incontro con Dio, che vedeva al centro l'uomo che doveva trovare dentro di sé, nelle virtù, quella forza per camminare verso quella meta. E vedeva le norme morali come quei segnali stradali che aiutavano a percorrere quella strada. Però il centro era l'uomo, era la coscienza, era le motivazioni che lo portavano ad andare verso quella beatitudine. Ecco la leggerezza della morale. E soprattutto la consapevolezza che ciò che qualifica il cristiano non è essere più buoni, ma la consapevolezza di essere amati da Dio. E che questo essere amati da Dio può fondare anche la morale. Ecco, è, lo dico in termini un po' tecnici, è l'indicativo della salvezza che fonda l'imperativo morale. Ecco, se volete, l'icona di tutti gli incontri che Gesù ha nel Vangelo. Zaccheo, che prima è curioso di incontrare Gesù, Gesù valorizza anche quella curiosità, lo chiama, lo porta a casa sua. Zaccheo si sente amato, rispettato, non giudicato, e la sua conversione è perfino esagerata nelle conseguenze che ha. Ecco l'impostazione della morale. Ecco, sei amato, ecco l'indicativo della salvezza che genera anche poi un percorso morale. Un quinto elemento è la centralità di Gesù, di Cristo, una morale proprio cristocentrica. E qui ricordo, insomma, quello che il Concilio aveva consegnato alla teologia morale. Diceva che il compito della teologia morale era illustrare l'altezza della vocazione dei fedeli in Cristo. E quindi c'è questo ritorno al Vangelo, al cuore del Vangelo, alla legge dello Spirito, prima che alla legge fatta di norme e così via, alla legge interiore. Ecco, e in questo senso è una morale proprio della grazia, del dono, più che dello sforzo, del dovere o del merito. Un'altra parola è l'essenzialità, è stata detta, no? la gerarchia delle verità. Ecco. E questo, per chi si occupa di morale sessuale e familiare, è un grande respiro, ecco, no? Per una morale familiare che nella visione cattolica entra nella precisione dei particolari e misura tutto e tutti, questa idea di dire esiste una gerarchia delle verità, esiste l'essenziale e esiste il periferico, ecco, esiste ciò che veramente conta e ciò che viene dopo, ecco, il coraggio anche di fare delle distinzioni, ecco, non entro in quali siano, ovviamente qualcuno è stato un po' così, quasi un po' preoccupato da questa che sembrava quasi una svolta, in realtà, insomma, ecco, è solo una doverosa distinzione. E infine, l'ultima nota e termino è questa. Ecco, non posso non far riferimento, nessuno l'ha fatto, però di fronte alla visione soprattutto morale di Papa Francesco, molti, anche autorevoli, hanno dei dubbi. Allora, io sento molta serenità, mi pare che Francesco non perde sonni per i vari dubbi che ci sono, no? E ecco, mi permetto di ricordare che il cardinale Ottaviani, al tempo del Concilio Vaticano II, diceva questo, ecco, che lui sperava di morire prima della fine del Concilio, perché voleva morire cattolico. Ecco, è morto, c'è stato il Concilio e lui è morto cattolico, ma lo siamo ancora, insomma, ecco, quindi... ecco, sono sereno, ma non me la sento di ridicolizzare nulla, perché comunque anche chi esprime una fatica lo dobbiamo anche così rispettare e capire e andare in profondità. Però vorrei entrare su questo, no? E dire solo una parola conclusiva. Allora, Papa Francesco, sono partito da dire che è un pastore prima di tutto. Ecco, non ha l'ansia di ripetere tutta la morale cattolica, è già scritta ampiamente, è già stato oggetto, ecco. Mi pare che la sua consapevolezza è dire ci sono dei problemi seri che sono legati proprio alla vita delle persone e noi dobbiamo avere il coraggio, più che dire altre parole definitive, di aprire dei percorsi, dei processi. Ecco, c'è bisogno di studiare, di discernere, di cercare e anche di dare spazio alla prassi pastorale, che Papa Francesco crede essere guidata dallo Spirito. E quindi, come dire, in Evangelii Gaudium dice che non dobbiamo avere tutto chiaro prima di andare in missione, ma andando in missione anche la luce viene, perché è lo Spirito che guida la Chiesa. E allora, quel famoso capitolo ottavo di Amoris Laetitia ha delle cose che sanno anche di problematiche. Papa Francesco ha aperto un processo e lascia che un po' alla volta la vita delle comunità e lo spirito guidi a trovare una maggiore luce. Quindi io credo che dobbiamo uscire dall'ansia dell'interpretazione corretta del capitolo ottavo, perché, come scrive Spadaro, Papa Francesco assume il suo governo, il suo modo di guidare la Chiesa, il suo ministero petrino, con questa idea di un ministero spirituale, ecco, di un governo spirituale, di chi vuole governare dei processi, più che aggiungere altri documenti, altre norme e così via. E questo deve dare, certo che un po' anche può lasciare un po' così, però è sempre avvenuto così nella Chiesa. Ecco, abbiamo letto qualche giorno fa il Vangelo della donna sirofenicia. Ecco, Gesù aveva chiaro il percorso, però questa donna non ha cambiato la volontà di Dio chiedendo le briciole, no? ma certamente l'ha accelerata. Ecco, quell'apertura anche a una donna pagana è avvenuta prima, ma vorrei dire anche la Chiesa dei primi secoli, quando aveva il problema di cosa fare con i pagani, non si è messa a discutere, ha visto che lo Spirito agiva anche nei pagani e ha preso atto che lo Spirito la stava guidando così. Ecco, anche qua può sembrare strano che qualcuno si scandalizzi che lo Spirito Santo guidi la Chiesa e che qualcuno anche creda che sia così, però è bene che ce lo diciamo e che siamo contenti di questo. Grazie. Grazie, Don Giampaolo. La tua riflessione in qualche modo mi pare ci ha fatto vedere come Papa Francesco è pastore in quanto ci mette in mano delle chiavi, la semplicità accompagnata dall'intensità, la credibilità accompagnata dall'interiorità, la coscienza. Ci porta in quella stanza interiore del riconoscimento che poi ci invita anche a fare delle scelte concrete, innesca dei processi. A Lorenzo chiederei che cosa succede, cosa sono questi processi, qual è la novità che ha portato rispetto al cammino che ci sta davanti. Papa Francesco ci invita a fare che cosa? La formazione, che cos'è? Sì, ho provato a riflettere nel mio contributo sulle implicazioni che si potrebbero ricavare da questa riflessione che Papa Francesco è venuto sviluppando in questi suoi anni, poi scoprendo che in realtà si tratta di un patrimonio di riflessione teologica, morale e spirituale che lui in realtà ha sempre coltivato. E quindi si tratta di uno dei punti fondamentali del suo pensiero che, come diceva adesso il rettore, no, è tutt'altro che sprovveduto teologicamente o improvvisato. È ricco di riferimenti e possiede anche un retroterra filosofico-politico, diciamo, filosofico-morale di tutto rilievo, anche se di una filosofia morale e di una filosofia politica, magari che è più latinoamericana, meno nota a noi, ma non per questo meno densa e meno strutturata. Allora io ho provato appunto sinteticamente, diciamo, a ricavare qualche elemento, qualche spunto che poteva essere, che può essere ripreso nel campo della formazione sociale e politica dei cristiani. E anche qui la prima osservazione che mi pare di avere così rintracciato nella sua scrittura non è tanto che Papa Francesco venga a dire chissà quali aspetti che destabilizzano, diciamo, o mettono in pericolo la tradizione della dottrina sociale cattolica, tutt'altro. I suoi riferimenti alla tradizione con la T maiuscola sono molto densi e sono anche molto, come dire, scelti con cura. E muovono certamente da un fuoco irradiatore che adesso cercherò di richiamare, che getta una luce nuova, questo sì, su tutte le tematiche che possiamo far rientrare, così detto molto sinteticamente, in quella che noi chiamiamo formazione sociale e politica dei cristiani. Un primo aspetto che mi preme di sottolineare è questo, lo sintetizzerei così. La prima indicazione è una questione di stile che muove da questa sottolineatura costante che Papa Francesco fa della gioia cristiana, che noi magari possiamo leggere un po' così, non è che d'altra parte non è che viviamo neanche in tempi, diciamo, in cui ci venga tanta voglia di gioire rispetto alle situazioni sociali, politiche, economiche. Però è questa luce nuova, la rilevanza pubblica della gioia cristiana che istituisce un modo nuovo di stare al mondo del cristiano e della comunità ecclesiale, che consiste in questo. Tralascio le citazioni, poi insomma vi dovete comprare il libro, ecco, cioè, non so, faccio un po' di pubblicità, dove troverete, c'è lo sconto, bravo, e quindi troverete anche i riferimenti, cioè non mi invento nulla, insomma. Come stare al mondo? Ecco, Papa Francesco dice il cristiano dovrebbe imparare a stare a questo mondo non con rancore, non con risentimento, non con il piglio di chi punta sempre il dito e che ha sempre qualcosa da recriminare, ma con uno stile pasquale, uno stile sociale e politico che è pasquale, ossia fatto di attrazione, di diffusività, di contagio, di persuasione. Non parto con la lancia in resta, ma io stesso sono il cristiano è un pezzo di questa diffusione, di questa diffusività della gioia cristiana. Secondo, questo stile del cristiano deve essere illuminato, attratto esso stesso dal regno, dal telos, dal fine. È il regno che illumina e attrae e dà l'identità all'agire cristiano nel sociale e nella politica. Potremmo chiamarlo uno stile escatologico, capisco, bisognerebbe approfondire, però insomma, adesso lo butto lì così. E si tratta di un elemento forse che potrebbe veramente questo mettere in moto una formazione e uno stile, un modo di stare completamente nuovo nel mondo e nella storia, dove è l'escaton che decide in qualche maniera la qualità della presenza cristiana. E in un certo senso questo escaton la relativizza anche, cioè non diventa una cosa di cui io sono quello che. Questo stile però deve essere anche ecclesiale. Nella comunità cristiana, dice Papa Francesco, prima di tutto deve venire fuori questo stile pasquale, questo modo nuovo di stare al mondo, per cui l'idea è che si deve vedere prima nelle nostre comunità cristiane, povere come sono, diciamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre associazioni, si deve vedere lì per primo il germe di una società alternativa che viene alla luce guardando al regno. E allora non si tratta più di mandare avanti qualcuno nei partiti, in questi luoghi, ma è una comunità che insieme, dal modo con cui si tratta, dal posto privilegiato che dà ai poveri, agli scarti, da lì si vede quello che il regno ci sta dicendo e forse sta già operando. Il secondo pilastro che mi pare di avere rintracciato, e questo veramente forte, mi pare, è il significato sociale della redenzione. La redenzione è sociale, la dimensione sociale è intrinsecamente legata al Vangelo stesso, al Kerygma, al cuore, alla matrice della fede cristiana. Non è il sociale una giusta posizione, non è neanche una conseguenza e non è neppure un effetto. È dentro, la redenzione è un fatto sociale. Perché? E Papa Francesco dice, perché c'è la convivialità tra il Verbo incarnato e l'umanità tutta. Questa è il nocciolo, il fuoco. Il Verbo incarnato ha voluto fare convivialità con tutta l'umanità, senza star lì a distinguere se c'era un'umanità più o meno buona, più o meno eccetera, no? E quindi il forte legame tra salvezza e fraternità. Capite che qui c'è da rivedere moltissimi dei nostri schemi di lavoro e di riferimento. Naturalmente qui ci troviamo subito, immediatamente, proiettati oltre il dualismo tra confessione di fede e impegno sociale, tra tutta una serie di dualismi più o meno accentuati, adesso devo semplificare, ma insomma noi veniamo fuori da un percorso in cui c'è sempre questa cosa qui. Ora, se il punto fondamentale è la convivialità tra il Verbo incarnato e l'umanità tutta, è evidente che siamo di fronte appunto a un modo nuovo di leggere il rapporto, che non so neanche dirlo adesso se è più un rapporto, non è certamente una fusione, perché, ma insomma è qualche cosa di più che bisognerà indagare. E la conseguenza seconda è certamente bisogna che ci educhiamo tutti e che ci aiutiamo a deprivatizzare la nostra fede cristiana. La fede non si risolve in una morale privata e solo nelle questioni dell'etica privata. Qui nella storia della Fondazione noi abbiamo vissuto un tratto, noi, la Fondazione, non è che siamo... La Fondazione ha vissuto un tratto importante di questa storia degli ultimi 30 anni in cui si è cercato di fare in modo, per esempio, che le questioni di bioetica non diventassero sempre questioni di scontro o esaurissero il messaggio, no? Però noi sappiamo quanto su questa via dobbiamo ancora fare strada. Terzo pilastro, formare all'incontro, non alla contrapposizione. Se Dio viene incontro all'umanità, e questo è il kerygma, allora i cristiani a loro volta devono formarsi all'incontro, devono loro per primi andare incontro. E là dove nessuno va, allora si capisce come il richiamo ai poveri, agli scartati, agli scarti, sia tutt'altro che un genere così letterario, un po'... No, qualcuno ha parlato di pauperismo, ma evidentemente non sapeva come usare questo termine. No, siamo oltre, come Chiesa e come cristiani, per esempio, abbiamo certamente, e credo anche giustamente, cercato il dialogo con le istituzioni, con i servizi, ma forse adesso è giunto il momento che impariamo a dialogare e incontrare di più quello che Papa Francesco chiama il popolo, i poveri, gli scartati, gli inoccupati e così via. E quindi l'asse di un nuovo umanesimo dell'incontro che attiva un orizzonte pedagogico che ha due figure. Anche qui mi associo a quello che veniva detto sul linguaggio, su questa idea di usare, che ha Papa Francesco, la metafora come traccia di verità, direbbe il filosofo Paul Ricoeur. E qui la grande metafora è formare al poliedro, cioè un'idea di verità che ha bisogno di tutti perché nessuno di noi ce l'ha e soprattutto nessuno di noi la esaurisce. Ma qui l'idea di fondo, dobbiamo formarci ad abitare in modo nuovo la pluralità delle nostre società democratiche. Non è facile, non è complesso, cioè è complesso, ma il poliedro ci dice dobbiamo formarci ad abitare questa pluralità delle nostre società democratiche in cui contano due cose, dice Papa Francesco. Il cristiano deve imparare ad argomentare in democrazia, portare argomenti, motivare perché promuove certi valori, difende certi valori, no? E poi, secondo, è importante il persuadere. Siamo appunto al di là, diciamo, dei principi non negoziabili e siamo posti in un lavoro più esigente, più paziente, portare avanti determinati valori e metterci la pazienza di persuadere, di argomentare, di motivare, perché l'obiettivo della presenza del cristiano nella società, nella politica, è quello di favorire quella che Papa Francesco chiama l'amicizia sociale e l'amore civile. Naturalmente non è una visione così bucolica, irenica. Papa Francesco dice nelle nostre democrazie, anche nella nostra comunità cristiana, c'è il conflitto, ok? Il conflitto, dice, adesso non leggo i passaggi, ma insomma, non va rimosso, va affrontato. Dobbiamo imparare ad abitare il conflitto, non viverlo in maniera contrappositiva, ecco la grande intuizione, ma viverlo cercando di trasformarlo nell'inizio di un processo nuovo che si può avviare. Se nel conflitto ci contrapponiamo, in qualche maniera veniamo ad incancrenirci, chiaro che dal conflitto non viene fuori niente, diventa sterile, violenza, offesa reciproca. Ma se noi, dice, lo assumiamo in questa logica dell'incontro, del poliedro, del dialogo, della ricerca del bene comune per tutti, allora il conflitto diventa generativo, mette in moto nuovi processi. Questa è un'altra grande indicazione. Papa Francesco dice: nella formazione il nostro obiettivo non è più di mettere in moto opere, luoghi, partiti, dobbiamo avviare processi, cioè pratiche sociali, forme di vita, quegli stili di vita che appunto sono quelli che non possiamo. Infine, e lo nomino soltanto perché ho bruciato il tempo, il quarto pilastro, una formazione che deve essere mistica e insieme politica, cioè che sa tenere insieme questo legame con il tutto e nello stesso tempo sa vivere insieme con gli altri, sa mescolarsi, sa incontrarsi con tutti coloro che sono gli uomini e le donne che in questo momento tutti insieme viviamo questa situazione più o meno triste, più o meno critica, più o meno conflittuale. Abitare in modo nuovo, una convivialità che è la redenzione nel sociale. Queste parole che ha elaborato e ci ha consegnato Lorenzo, rileggendo, ecco, atteggiamenti, pensieri e parole di Papa Francesco, danno a noi la possibilità di chiedere al Vescovo Claudio di essere con noi non solo in ascolto ma anche pastore, quindi di aiutarci a leggere dal suo punto di vista, con la sua esperienza, con la sua storia, dentro a questa Chiesa che è stato chiamato, come dire, ad accompagnare, a vivere in una convivialità che chiede anche a lui una novità di presenza e anche di testimonianza. Grazie. Avevo pensato alcune cose, ne dico altre. Perché ne ho già sentite, cioè le riflessioni che sono state proposte rendono la lettura del libro, non voglio percentuali, interessante. E io mi pongo dalla parte di un parroco, oppure di un educatore, o di un genitore, e anche in questo momento in cui tutti noi, scusate se cito, siamo come oberati dalla storia di Don Andrea Contin. E quindi tutte queste belle cose di cui stiamo parlando, che credibilità hanno dette da una Chiesa o da cristiani che stanno parlando? Ecco, una prima sottolineatura che io farei è questa, che la domanda dove va la morale. Io penso che dobbiamo dire che c'è ancora utilità, è ancora importante una morale, educare a una responsabilità morale dei propri atti, dando valore quindi ai propri atti. Questo non soltanto alla luce di questo scandalo che noi abbiamo vissuto, ma anche delle relazioni normali che abbiamo con i nostri ragazzi, con i nostri figli. Molto concretamente, a volte la sensazione che si faccia fatica a dare valore, a dare importanza ad un'educazione anche morale, in forza di altri riferimenti che noi assumiamo, che ci vengono consegnati dalla cultura di cui noi facciamo parte. Ecco, dove va la morale? Penso che per me sia importante dire la morale non è tutto, però è una componente fondamentale per assumere a vita, vivere con responsabilità e con un progetto, con una vocazione. E così ascoltando mi sono come appuntato alcuni elementi, però sono proprio frutto dell'ascolto. Il primo è che una comprensione della propria vita dentro un progetto, dentro un'ispirazione, quindi che ha dei valori, va collocata proprio in un contesto storico preciso. E mi sembra che il nostro contesto sia quello della crisi di noi adulti, di una interpretazione morale, di una lettura morale che diamo noi adulti. E può essere descritta come crisi di fede, crisi spirituale. Qualcuno legge, ad esempio il professor Magatti, la crisi economica alla luce della crisi spirituale nella quale noi viviamo. Per cui i nostri ragazzi non hanno una prospettiva, non hanno degli obiettivi, perché li abbiamo già raggiunti noi. Abbiamo occupato, in certo senso, lo spazio di ricerca che è dei ragazzi. Così come anche il nostro contesto ha messo noi adulti dentro un linguaggio che a noi non appartiene più molto, che è quello che non ci è mai appartenuto, che è quello digitale, globalizzato. E questo qui è un contesto nuovo, dove noi facciamo fatica a capire dove stiamo andando, come stiamo operando, che cosa stiamo trasmettendo anche come valori. E questa è la crisi di noi, senz'altro di noi adulti, soltanto cenni, ecco. No? Ora, mi sembra che il primo elemento di cui dobbiamo tenere conto è che noi dobbiamo vivere dentro questo contesto storico, culturale, nuovo, dove noi adulti siamo un po' persi. Una seconda attenzione che ho raccolto è quella dell'accompagnamento personale, anche da Papa Francesco. Cioè, al di là dei principi ci sono io, c'è mio figlio, c'è quell'amico, c'è quella donna che nel suo mondo deve fare una sintesi e quindi deve capire come esercitare le sue energie umane e spirituali per rendere credibile ciò in cui crede, per rendere la sua vita innanzitutto, per collocarla dentro un progetto e non semplicemente abbandonata, isolata o trascinata. Credo che l'incontro personale per un parroco, per un genitore, l'assunzione proprio di una relazione personale dentro la quale cercare di accompagnare una persona dentro nella sua libertà e nella sua unicità, dentro una sua realizzazione. Una terza nota che mi sono segnato dentro questo contesto morale è quella della progressione personale, che comporta, che noi sappiamo anche come adulti e come compagni di viaggio, sappiamo appunto adottare alcuni principi, tipo quello dell'essenzialità, prima veniva citato la gerarchia delle verità. È importante anche saper collocare quello che noi assumiamo anche dal magistero, dalla nostra storia, dentro il suo contesto, perché quando la morale viene percepita come una serie di regole, appunto si rischia di guardare la regola e di non capire tutto il contesto nel quale questa regola del quale è espressione, no? E poi sembra che quella regola lì sia il tutto, sia la cosa più importante. Uno trasgredisce quella regola e sembra che non abbia più una morale. No, quella lì è una regola che va collocata dentro il suo contesto, che le dà anima, che le dà forza, che le dà senso. Ecco, questa progressione personale penso che possa essere da cristiani immaginata come un cammino verso la figura matura che per noi è Gesù. E in questo ognuno cammina con i tempi, con le modalità, con le forme nuove che la sua vita gli presenta. Possono esserci anche tempi diversi. Almeno io nella mia vita ci sono, ho visto che sono momenti di entusiasmo, altri momenti di stanchezza. Poi adesso posso dare una lettura di dove sono arrivato finora. Ecco, progredire personalmente verso Gesù e verso questa statura penso che sia una bella indicazione, che però richiede appunto una, come veniva detto anche adesso, una profondità spirituale, un'attrazione, c'è un'attrazione che viene esercitata in noi dal legame col Signore. Perché se non andiamo dentro questa profondità spirituale rischiamo appunto di ricadere nella ricerca di soltanto di regole, di norme. Ecco, a me è sembrato importante anche un altro riferimento per camminare insieme dove va la morale, no? Che è quello della comunione ecclesiale. Noi non siamo soltanto degli io. E mi sembra che siamo tutti collocati perché ne abbiamo bisogno, non perché siamo bravi, perché diversamente rischiamo di scoraggiarci o di cambiare cammino, di costruire un nostro cammino, una nostra fantasia. Noi siamo tutti affidati a qualche comunità. Chi tra voi è sposato, la prima è quella del marito o della moglie o della famiglia che si è costruito. No? Ed è importante saper camminare alla luce anche dei contributi che vengono dati dagli altri e con il sostegno che viene dagli altri. Però ci sono anche le comunità che sono state pensate per noi, non so, la nostra parrocchia, il nostro gruppo di appartenenza. Non è un in più, credo che sia il contesto necessario dentro il quale poter esercitare la nostra libertà e la nostra creatività. E penso che sia anche quel contesto dove noi possiamo uscire dal rischio dell'individualismo. È una fatica il riferimento agli altri. Il rischio di essere single è diventato sempre molto più forte, no? Un certo liberismo anche a livello personale. E anche noi preti abbiamo necessità di far parte di un presbiterio, appunto per questo motivo, non siamo degli isolati e non siamo lasciati ciascuno a noi stessi. In una lettera che ho mandato appunto ai preti dicevo che anzi uno dei segni della nostra difficoltà è quando cominciamo ad andare per conto nostro, ognuno per conto proprio, e si abbandonano i contesti comunitari. Ecco, penso che anche una morale, la morale, con queste indicazioni però abbia bisogno di cadere dentro un contesto ecclesiale, e quindi non soltanto in un gruppo, ma in un contesto proprio ecclesiale. E l'ultima cosa che mi sembra di poter così raccogliere è quella della necessità di vivere dentro un contesto umano. Il Papa parla di incarnazione, cioè noi le nostre fatiche le dobbiamo fare e dobbiamo lavorare, dobbiamo confrontarci con il marito, con la moglie, con i figli. Dobbiamo accettare i nostri limiti, i nostri errori, gli errori degli altri. Certo, potremmo sognare una famiglia ideale, ma non c'è. C'è soltanto la nostra famiglia. Una chiesa ideale, ma non esiste, c'è soltanto la nostra chiesa. Un mondo, ma c'è questo. E qui dentro noi dobbiamo vivere e dobbiamo accettare questo come luogo della grazia, cioè dove il Signore ci ha messi. anche le fatiche che vedo guardando, quando mi guardo adesso girando per strada, andando nelle parrocchie, vedo che in tanti sono dispiaciuti per me. Però dobbiamo anche dirci, no, che dobbiamo viverle insieme queste cose qua. E questa è la nostra Chiesa, la nostra bella Chiesa è fatta anche di questo. Così come anche la nostra famiglia, così come anche la nostra persona, che è chiamata a dare un valore alla sua vita, dare anche un cammino in progressione per la propria vita. Penso che il Papa sarebbe d'accordo su queste cose, penso. Don Giampaolo forse anche, quindi ringrazio però chi ha sollecitato questo, anche questo incontro, non soltanto il libro, perché mi sembra che ci aiuti a fare domande e a, insomma, a riflettere oggi su questo tema, quindi mi sembra ancora importante. Grazie. Grazie, il mio grazie e il grazie di tutti, già anticipato da questo applauso che ci fa sentire che siamo insieme, che siamo con lei, qui e ora, pronti anche a quella progressione alla quale in qualche maniera ci invitavano. Abbiamo bisogno di accompagnamento e l'immagine, diciamo, del popolo che cammina e che esce dalla terra d'Egitto, va verso la terra promessa, è anche l'immagine un po' complessa, confusa, dove c'è qualcuno che corre di più, qualcuno che torna indietro, ma quella è l'immagine di quella che è questa bella esperienza di comunità di Chiesa che noi insieme stiamo cercando di vivere. Ecco, andiamo per rispettare un po' i tempi verso la conclusione, ci sono probabilmente tante domande dentro ciascuno di noi. Io vi inviterei a non lasciarle morire dentro voi stessi, neanche stasera. Non abbiamo il tempo di condividerle, però avete dei riferimenti. Non so come abbiate intercettato questo incontro e approfittatene. Potete scrivere anche una mail, potete anche scrivere qualcosa, mandarci. È importante condividere. Ecco, il libro è uno spunto. Per inciso faccio presente, tenendo conto magari dei più giovani, che il libro è disponibile anche come ebook, si può quindi acquistare anche come ebook, perché magari le giovani generazioni fanno prima così, anche se il profumo del cartaceo a noi piace molto. Però qui è scontato, approfittate. E comunque quello che ci siamo un po' detti a più voci questa sera è, come dire, espressione di un cammino che continua. Stiamo andando avanti con un progetto che è quello dell'etica civile, che ci vedrà impegnati in un convegno nazionale a Milano il 1 e il 2 di aprile. Ecco, magari ci teniamo collegati, seguite, chiedete e ci lasciamo. Qualche giorno fa, mentre in casa con alcuni amici stavamo parlando di varie cose, anche di cose più o meno serie, che possono assomigliare a quelle che ci dicevamo questa sera, a un certo momento mi avvicina una figlia della coppia dove eravamo ospiti, probabilmente sentiva i discorsi che facevamo, parlavamo di credibilità, di sguardo, di visibilità, eccetera, mi tira il maglione e mi fa: ma Germano, di che colore sono gli occhi di Dio? Allora, io per un attimo sono rimasto lì, perché voi sapete che quando i bambini fanno delle domande vuol dire che hanno capito di più di quello che noi abbiamo detto. Allora sono rimasto imbarazzato per qualche minuto, gli altri adulti mi hanno guardato e hanno detto: rispondi tu. A me è venuto da dire questo: gli occhi di Dio hanno il colore dei tuoi occhi quando ti ricordi di una parola che lui ha detto. Ecco, credo che questo sia il succo, la sintesi anche di quello che ci siamo detti questa sera. Il Vescovo concludeva dicendo: i sogni sono importanti, ma devono diventare realtà. Allora io chiudo questa serata leggendovi soltanto qualche piccola frase che più o meno 20 anni fa il Cardinal Martini diceva rivolgendosi alla sua città. Sogno una città che sia luogo adatto al riconoscimento di sé. Sogno una città capace di riconciliare passato e futuro, rinsaldata da uno stabile patto intergenerazionale, innamorata della vita e del suo affascinante mistero. Sogno una città giovane e solidale, una città dove ci siano spazi di silenzio. Sogno una città dove le vie siano percorribili in tutti i sensi. Sogno una città dove si sia capace di intercessione e di ospitalità, dove gli stranieri si incontrano. Sogno una città dove la Chiesa dia anima alla città, una Chiesa che viva il Vangelo. Buon cammino e grazie. Grazie alla Fondazione Lanza, a tutti coloro che sono intervenuti, incontro che si è svolto nel pomeriggio dello scorso 14 di febbraio, le voci di Germano Bertin, caporedattore della rivista Etica per le Professioni, che ha coordinato gli interventi, l'ultimo quello del Vescovo Claudio e prima ancora il Presidente della Fondazione Lanza Lorenzo Celi, Don Giampaolo Dianin, Don Giuseppe Quaranta, teologi della Facoltà Teologica del Triveneto, i professori Simone Morandini e Lorenzo Biagi, mi hanno presentato questo libro Edizioni Project, Dove va la morale, Papa Francesco e il rinnovamento dell'etica. Per altri dettagli, fondazionelanza.it. Da Mirko Cavallini, studio in redazione, Eddie Daici e Francesco Galanti alla parte tecnica, voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con Blu Radio Veneto.